suo sprofondo nell'infame abisso, privo di speranze con lo sguardo perso. È un vuoto che riflette la mia immagine, immagine. Quanto tempo ancora è stato a vivere? Solo quei giorni di gloria mi fanno resistere. Nell'eco di una vita ormai troppo vissuta, ma non ancora finita.